Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in you, baby. I got faith. Eccoci qua, 8-10 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Riprende una nuova puntata, il buongiorno nel weekend su Radio 24, si può fare palinsesta autunnale, siamo tornati in diretta, il sabato e la domenica mattina, questa è la seconda settimana, 800-24-0024. Direttissima, ma si sente le nostre voci, nessuno può pensare che siano registrate a quest'ora, sono evidentemente le nostre voci della mattina appena svegli. Carlo, Milano-Monterosa? Piovigina sempre un po', no, piovigina esagerato, in realtà... Sgocciola, come hai detto sì, ieri. Sì, ieri sgocciolava, oggi sta per sgocciolare, ma al momento non tanto, quindi potrebbe anche volgere al bello. Vi aspettiamo, cari ascoltatori, per stare insieme una mattinata. Parleremo più tardi di una novità che sta per arrivare sugli autobus di alcune città dell'Emilia Romagna. Telecamere a bordo per stanare quelli che non pagano il biglietto. Insomma, come si dice, i portoghesi, mi dispiace per loro, ma si dice così. Si dice così. Ci scroccano il viaggio a tutti noi. Allora vedremo se non si può fare, se può funzionare questa soluzione. È giusto, naturalmente, stanare chi non vuol pagare il biglietto sull'autobus. Questo è una cosa sacrosanta, ci domandiamo se è giusto cedere una quota ulteriore, come dire, di privacy, di riservatezza, perché queste telecamere naturalmente ci riprenderanno tutti in faccia. Tutto il tempo, ma non ho capito se è telecamere fisse o se è telecamere addosso ai controllori, quindi sembrerebbe. Quindi in realtà sono dei piani sequenza, dei film in giro per la città, cioè i controllori di Milano che riprendono tutta Milano. Il particolare, l'occhio della madre, esatto. Lo stivale, com'era? Magari scopriremo un nuovo Lars von Trier. 800 24 00 24, questo fra più tardi, insomma dopo le 8:30. adesso una veloce occhiata ai giornali di oggi, non è una rassegna stampa, c'è già Giulia Crivelli che la fa benissimo, certo. Noi diamo un'occhiata, cerchiamo sempre delle buone notizie naturalmente, poi cerchiamo anche un personaggio della settimana, come sempre la domenica. Bravo, vado a dare il primo indizio di questo personaggio che andiamo cercando, che ha una notizia che lo riguarda negli ultimi 7 giorni, ha tante qualità. Quindi cominciate a pensare a un personaggio che possa avere queste qualità. 800 24 00 24. Diciamo anche che il gioco di ieri, quello su dateci una buona ragione per mollare la bicicletta, per mollare l'auto e usare la bicicletta, esatto, lo vince Francesco, l'ascoltatore che mi pare chiamasse da Milano. Comunque che sapeva tutto, che ne aveva 600 di motivi, e anche solamente per quantità ci è sembrato giusto assegnargli il premio. Esatto. E allora andiamo a dare un'occhiata a cosa c'è sui giornali di oggi. Allora, titoli in ordine sparso, come accade spesso la domenica. Il Corriere titola su Di Maio. Di Maio, leader, divide i 5 Stelle, perché pare che ci sia già una fronda vicina a Fico che insomma, ha qualche preoccupazione. Per ora però è l'unico candidato, è l'unico che si sia candidato. Diversi giornali in realtà sì. Riprendono la questione di chi ce l'ha, di chi Maio, ce di che si interessa anche il Fatto Quotidiano, bravo, ovviamente, bravo. Che in realtà apre con altro, con tutto quello che dice Renzi è falso, diciamo la tocca piano. Aspetta, il Fatto allora Quotidiano. Ce l'abbiamo il supertitolo, perché questo è il supertitolo di oggi. Dai, secondo me è un titolo del tubo, però tutto quello che dice Renzi è falso non è male. È esagerato. No. Ah beh, visto che è partita la sigla, giusto, la sigla della notizia da urlo, ve la do io la notizia da urlo, che è questa qua. È successo in settimana a Roma che il furgone dell'AMA, quella che dovrebbe andare a raccogliere i rifiuti, si è bloccato perché si è incastrato con una buca, la ruota si è incastrata in una buca che c'è sui San Pietrini a Roma. C'è proprio la fotografia dello stallo, del disastro romano. È l'insieme di tutti i problemi in un'unica fotografia, tu dici. Questa è la notizia da urlo della settimana, naturalmente. Non è colpa della Raggi, non è colpa della giunta del Movimento 5 Stelle, non è che ogni volta che diciamo che c'è una cosa che non funziona a Roma e magari ci si scherza anche un po' su, dovete, amici del Movimento 5 Stelle, prenderla con... Non è questo. Però sarà anche che si può parlare di Roma, perché si può parlare, se no, nel senso che sarà anche che non è colpa sua, però insomma è lei che sta governando. Comunque nella foto sarebbe molto bello se ci fosse, se fosse stata una foto di notte con anche 5 Stelle. Allora, tutto quello che dice Renzi è falso, e scrive il Fatto Quotidiano, anche il giornale ha notizia su apre su questa questione qua, il giornale ce l'hai tu, Carlo, il giorno ha lo stesso argomento, i giustizieri, anche questo potrebbe essere un super titolo, c'è la foto di Henry Woodcock, il PM indagato per falso, e poi c'è un Falco, il capitano ultimo dei carabinieri, verso la sospensione, un complotto contro Renzi, Gentiloni che parla di giustizia screditata, e questo è il caso Consip. E anche il giornale in realtà apre sul caso Consip, la verità sui complotti, dopo l'inchiesta taroccata contro Renzi, la sinistra scopre le toghe politicizzate, un titolo ironico. Intanto, tra poco andiamo sul traffico, però c'è già una buona notizia, c'è già una buona notizia a Londra. Scrive La Stampa, arrestato un 18enne, la polizia a caccia dei complici, il presunto attentatore della metro fermato a Dover cercava di imbarcarsi. Insomma, questa è una buona notizia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua, di nuovo ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E allora, cerchiamola qualche buona notizia, cerchiamo, l'abbiamo anche forse trovata. In realtà va detto che il Corriere della Sera, come dicevi tu, apre con Di Maio leader, divide i 5 Stelle, però in realtà prima, nella vera apertura, c'è un'Italia in movimento, non più separata in tre, ed è una bella inchiesta di Dario che racconta, Di Vico, certo. Esatto, che racconta come sia cambiata la geografia dell'Italia e non è più quella degli anni 80 divisa in nord, sud e centro, ma ci sono nuove traiettorie. E poi un'altra buona notizia nelle pagine di Milano del Corriere della Sera. Spessissimo diciamo servirebbe una patente per il cellulare, ho visto dei bambini di 10 anni che avevano già in mano il cellulare. Beh, nasce questa cosa, un'associazione a Milano che decide di fare dei veri e propri corsi per i ragazzini dagli 8 ai 13 anni per come si usa lo smartphone, di modo che si capisca che lo smartphone può essere utilissimo e si possono imparare un sacco di cose, ma bisogna stare attenti appunto al cyberbullismo e al cosiddetto sexting. Ma con la patente. In mano ai bambini è come una Ferrari. A Chinatown nasce il progetto Scuola Guida Digitale contro Sexting e Cyberbullismo. Sempre il Corriere, che ci picchia molto sulle buone notizie, ha lanciato anche un hashtag, c'è un settimanale. Ci copia tantissimo. C'ha in prima pagina una foto notizia di una studentessa modello. È giusto dare spazio anche a persone comuni, normali della strada, che però sono in qualche modo da notizia la copertina, perché questa ragazza, la forza di Giorgia, liceale senza genitori, suo padre è morto 3 anni fa, la madre è dovuta partire per la Romania, lei 18 anni, colleziona voti da fuori classe e conosce 6 lingue, e questa è solo una delle tante storie che si possono raccontare. E domani è il suo compleanno, così proprio per arrivare a tutte le buone notizie. È anche il suo compleanno. Poi, a dir la verità, tra i giornali di oggi c'è anche una curiosa inchiesta che non è tanto una buona notizia, anzi, per chi è socio di una Coop o ha messo i soldi nel libretto di risparmio di una Coop, eccetera, La Stampa lancia un'allerta, che è il titolo principale del giornale: finanza rossa, conti da rivedere, incognite sui 9 miliardi di prestiti, valori gonfiati di alcune partecipazioni nei bilanci delle Coop, tra cui in alcune banche, o partecipazioni finanziarie legate a banche come Monte dei Paschi e Carige, mettono a rischio i soldini di questi risparmiatori che possono averli appunto investiti, tenuti nei libretti delle coop, ma c'è tutta una galassia: Unipol, Arca Vita, Linear, Arca Assicurazioni. State attenti dove mettete i vostri soldini, questo sempre e comunque. Oh, poi c'è sui giornali di oggi c'è una notizia incredibile per gli appassionati del Trono di Spade, Games of Thrones. E chi non lo è? E chi non lo è? Tu ci stai entrando adesso, di la verità, anch'io. No, da sempre. Ma io da sempre, sono lì che mancano sei puntate, Mancano sei puntate a cosa? Della sesta dell'ultima stagione, che in realtà è divisa in due, sì. La stagione che è divisa in due, perché Bravo. Hanno deciso di fare, sono 13 puntate, ma di cui una sono 7 e l'ultima che stiamo tutti aspettando sono le altre 6. Io sono alla terza stagione, sono lontano. Sei molto lontano, ti invidiamo che devi sto ancora... Sto facendo il ripassone, però qua la cosa bella è questa, ci sono... 6 finali di stagione che stanno girando per evitare che cosa? Lo spoiler. Certo. Per evitare che la gente su internet o in giro racconti dei finali e metta in crisi, insomma, il pubblico, quello normale che non va a spoilerare. Allora lo ha dichiarato il presidente della HBO, che è la casa di produzione, Casey Bloys, ha detto proprio questo, lo ha detto al New York Times: stiamo girando 6 finali, così gli spoileristi li freghiamo. Sì, però sottolineato che in realtà loro hanno avuto quest'estate grossi problemi, perché c'era chi aveva la puntata precedente minacciava di caricarla, poi l'ha pure fatto, di mostrare prima la puntata, e ha in pratica ricattato la casa di produzione chiedendo dei soldi per far sì che loro non mostrassero in precedenza la puntata. Ma siccome siamo Si Può Fare e dobbiamo per forza trovare delle buone notizie, vi facciamo sentire quelle che sono le 5 migliori notizie della settimana. Si Può Fare. Give me five. All right. Give me five. Allora, non ci arrendiamo e siamo andati a Palermo. Prima buona notizia, 5° posto, al via per la prima volta l'assistenza a casa per persone affette da autismo. Sapete che in Sicilia sulla questione dei disabili c'è stata una grande discussione, polemica, perché mancavano i fondi per i disabili, è dovuto intervenire PIF, Giovanotti e tutti. Adesso Palermo parte in contropiede e offre assistenza domiciliare a 400 autistici palermitani e insomma è una buona notizia, perché non sempre c'è questo livello di assistenza per chi è affetto da questa patologia. Vai, 4° posto. Al 4° posto, i tassisti di 3 città donano il sangue, il radiotaxi al Gaslini. È accaduto venerdì 15 settembre, una bella iniziativa solidale dei tassisti genovesi, in realtà come faranno anche i colleghi di Milano e come hanno fatto anche i colleghi di Milano e Roma, che hanno promosso una raccolta sangue. Tutti gli affiliati alla cooperativa radiotaxi a turno ovviamente si assenteranno dal servizio e andranno a donare il sangue. Questa iniziativa si chiama L'albero del sangue non esiste, tutti taxi per amore. E questo è l'anno, tra l'altro, dei 90 anni dell'Avis. Comunque, che noi ben conosciamo e abbiamo ben ricordato. I tassisti, spesso ci troviamo a duellare con i tassisti su questioni. Questa volta bravissimi. Volevi dire, di solito succhiano il sangue, invece questa volta lo donano. Terzo posto, notizia che riguarda Empoli, ma progetti del genere sono sicuro che ci sono in tante città. Empoli, i bambini delle scuole eliminano 112.000 bottiglie di plastica, cioè praticamente l'azienda che offre il servizio idrico Acque S.p.A. Raddoppia i controlli nelle scuole che decidono di togliere le bottiglie d'acqua minerale e usare l'acqua del rubinetto, quindi un'acqua controllatissima, buonissima. E le scuole quest'anno di Empoli che aderiscono sono quasi tutte da 7 a 14 raddoppiano. È stato calcolato che questi bambini riusciranno a far risparmiare 307 tonnellate di plastica in un anno, e sappiamo che uno dei grossi problemi, forse il più grosso problema di inquinamento di questi anni, è proprio la plastica che sta nelle nostre acque, appunto. Quindi bravi questi bambini. Si può fare in tutte le scuole, si potrebbe fare anche nelle case, però un conto è convincere ogni famiglia a farlo, un conto si è... Si fa in tutte le case. Si fa in tante case. La raccolta differenziata. La raccolta sì, ma usare l'acqua del rubinetto anziché comprare le acque minerali. Ah, certo, io bevo acqua del rubinetto, eccetera. Quindi... Ecco, bravo, tu sei bravo. Al secondo posto, in realtà più che una notizia, al momento è solamente un annuncio, ma siccome vogliamo dare fiducia, diciamo che più che un si può fare, questo è un speriamo che si faccia. ed è Poletti che dice: tasse dimezzate a chi assume giovani. Confermiamo la volontà di voler intervenire ancora in materia di occupazione giovanile, riducendo la quota degli oneri contributivi del 50% per 3 anni. Questo le parole del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che sottolinea che appunto i contratti d'apprendistato vorrebbe che i contratti di apprendistato vengano resi stabili. Sperem, esatto. Sperem, l'ho detto 3 volte perché su questi annunci li laghiamo sulla fiducia, come hai detto tu, Carlo. Esatto. Anche questo progetto europeo, primo posto, quindi della migliore notizia della settimana, è un progetto europeo, Wi-Fi for Europe, è stato approvato, quindi l'Unione Europea finanzierà fino a 6.000 aree Wi-Fi gratis per tutto, in tutta la comunità europea, quindi l'accesso alla rete gratuito in tante zone pubbliche europee potrebbe diventare una realtà. Anche questo è un po' un annuncio, sì. Giustamente, diciamo, non dire Wi-Fi finché non hai la password. Ciao Carlo, ciao Alessio, sono Massimo, sono nel 2037, credo che, se i miei calcoli non sono sbagliati, voi siete tra il 2017 e il 2018, sono qua, sono molto emozionato perché oggi assisteremo al primo matrimonio tra un'intelligenza artificiale e un umano. So che voi ne state parlando, la comunità europea credo che proprio in quegli anni abbia appena varato una legge per riconoscere uno stato giuridico ai robot e alle intelligenze artificiali. Sono proprio nel comune di Barcellona, guarda, stanno preparando i banchetti, sono venuto prima naturalmente per assistere a questo evento, io sono tra coloro che hanno firmato questa petizione. Oggi Sergio, così si chiama il robot, e Carmen, una signora di 84 anni di Barcellona, si sposano perché si amano, perché hanno fatto un'esperienza insieme, lui era il badante di lei, e si amano, e abbiamo combattuto perché questo diritto di amore vada anche a contaminare le intelligenze artificiali e gli umani, che si devono amare come si amano gli umani tra di loro, di qualunque tipo essi siano. Ciao, ci sentiamo spero presto da altre località del mondo dove il futuro è già arrivato. Ciao. Cioè, questo era Massimo Temporelli dal 2037, dove ci avvisava di questo matrimonio. Era molto ansimante a questo molto emozionato il matrimonio tra un robot e una signora di 84 anni a Barcellona. Perché effettivamente, come ci diceva Temporelli, tutto questo parte da una notizia vera, giusto Alessio? Sì, perché quest'anno il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che prevede di creare uno status giuridico, norme per regolare la vita dei robot, che più diventano complessi più bisogna preoccuparsi anche di trattarli come degli umani, e quindi nel 2037 si sposano penso che questo robot si lamenterà del fatto che si chiama Sergio, secondo me, penso anch'io. Allora 800 24 00 24 vi aspettiamo, tra poco parleremo di telecamere sugli autobus dei mezzi pubblici a Piacenza, Reggio e Modena, per stanare chi non paga il biglietto, ma anche per aumentare la sicurezza sugli autobus. Si può fare? Aumentare vicino alla parola biglietto, secondo me c'è uno scossone dei nostri ascoltatori. Panico. E poi cerchiamo un personaggio della settimana, cari ascoltatori, chi indovina per primo si porta a casa anche oggi un bel premio, un libro a tema sulla puntata di oggi. E Molte qualità è l'indizio che abbiamo dato per indovinare il nostro personaggio. Perfetto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cerchiamo un personaggio della settimana, cari ascoltatori, che ha tante qualità. Questo è il primo indizio che vi diamo a dare. 800 24 00 24. A proposito della notizia sull'acqua pubblica, sull'acqua del rubinetto nella scuola, l'acqua del sindaco, l'acqua si del chiama sindaco Milano. La scuola di Empoli, c'è un ascoltatore al 3492386666 che ci scrive: cominciate a dirlo a Nicoletti di usare l'acqua di rubinetto, visto che dice in diretta che lui non la beve perché gli fa schifo quella roba bianca che si vede quando viene bollita. Ma infatti anch'io devo dire la verità, non bevo l'acqua di rubinetto, non lo so, no. Perché noi siamo anziani, è un fatto culturale, noi siamo legati a quel mondo lì. Invece la cosa bella della scuola di Empoli, la cosa bella della scuola di Empoli è che sono bambini, imparano da piccoli che quell'acqua si può bere. Ma io trovo, certo, che sia bellissima. Ma però è strano la questione dell'anzianità. Di solito sono i giovani che vogliono invece l'acqua perché l'hanno vista nella pubblicità. Ma tutti quelli, diciamo, che hanno fatto la guerra come te, Alessio, hanno iniziato a bere l'acqua del rubinetto e avrebbero dovuto continuare. La guerra la farò con te dopo questa puntata. 800 24 00 24. Salutiamo, è con noi il presidente di Seta Trasporti, Vanni Bulgarelli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, buongiorno ai radioascoltatori. Perché buongiorno. La notizia, l'abbiamo detta, telecamere sugli autobus per disincentivare chi non paga il biglietto, ma anche per aumentare, credo di aver capito, la sicurezza a bordo degli autobus. Parliamo, Bulgarelli, intanto di quali città serve la vostra azienda dei trasporti? La nostra azienda è frutto della fusione di tre diverse aziende di Modena, Reggio e Piacenza, e noi operiamo in questo ambito, gestendo circa 30 milioni, come si dice, di chilometri vettura, il che significa sostanzialmente sviluppare un'azione su un bacino potenziale di circa 1.300.000 abitanti. Ecco, piccolo momento proloco del presidente di Seta che ci ha spiegato tutto. No, beh, i numeri. Giusto. Del nostro lavoro, 6.400 corse ogni giorno, e quindi un po' impegnativo. Quindi parliamo di un bacino abbastanza importante. Cosa potrebbe cambiare? Cosa sta cambiando su questi autobus? Abbiamo detto telecamere a bordo. Però... Ma non è a bordo, è body cam, se ho capito bene. Sono telecamere attaccate al collo dei controllori, o sbaglio? Che stanno a bordo, però. Noi abbiamo da tempo un progetto più ampio, che è quello di migliorare la sicurezza del nostro personale viaggiante, in particolare dei controllori, e anche dei cittadini che frequentano i nostri servizi. Lo facciamo in vari modi, tra questi modi quello di un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza che sono già esistenti su un certo numero di autobus a Modena, quasi tutti quelli del servizio urbano, in parte dell'extraurbano. Li installeremo nei prossimi mesi anche a Reggio e a Piacenza, abbiamo già acquistato i prodotti necessari, e abbiamo introdotto per la prima volta in Italia anche la body cam, e cioè doteremo i nostri operatori, controllori che salgono in vettura di body cam. Parliamo di un apparecchio grosso più o meno come una scatola di sigarette, che verrà azionato al momento della salita dei nostri controllori sull'autobus, e questo allo scopo, per un verso, di assicurare maggiormente la loro sicurezza, perché pensiamo possono costituire un ulteriore deterrente a chi pensa di offendere o aggredire il personale. Questo accade, perché, no? Bisogna dire che questo accade. Sì, non sono magari numerosissimi, ma cominciano a essere un po' troppo significativi, e la protezione del nostro personale è il primo obiettivo. Il secondo è quello di proteggere indirettamente, quindi, anche i cittadini, perché le body cam hanno una qualità di ripresa e una possibilità, diciamo, di integrare il sistema fisso esistente molto elevata, e in terzo luogo costituiscono anche una garanzia per il cittadino che magari ritiene di essere stato non educatamente trattato dal nostro personale. Senta, prima di approfondire il tema poi delle telecamere, che è giusto approfondire perché è per questo che l'ho chiamato, però la questione la porteranno i controllori addosso, no? Però quanti sono i controllori? Perché alla fine può anche non piacere l'idea che ci sia il controllore, perché lo sai, quando c'è il controllore non c'è scampo se non hai il biglietto, però è l'unico modo, no, per essere sicuri che poi la gente impari e faccia il biglietto normalmente come si deve fare. Quante sono i controllori? Facciamo una media, non lo so, una percentuale. Noi abbiamo mediamente tra i 50 e i 60 controllori in attività. Come si sostanzia, come percentuale? Cioè, salgo su un autobus, che percentuale ho? Che probabilità ho di trovare il controllore? Sono state elevate circa 110.000 contravvenzioni alle persone che non erano dotate di titolo di viaggio regolare. o non convalidato o in totale vabbè, assenza. Insomma, quindi 110.000 su quel bacino non sono poche, una percentuale sì, non ce l'ha, però è chiaro, realtà, i controlli li fate. I controlli ci sono piuttosto rigorosi, ma in realtà sì, il nostro obiettivo non è fare contravvenzioni, è produrre due effetti fondamentali. Uno, innanzitutto, un principio di equità, perché chi paga, paga anche per chi non paga, e questo non va bene. Il secondo è perché ovviamente si danneggia l'economia dell'azienda, che è un'azienda pubblica e che ha bisogno di avere anche le risorse provenienti dalla sbigliettazione. Assolutamente. Tra l'altro, qual è? Sì, è che nel primo semestre sono calate le contravvenzioni in modo sensibile e sono aumentati gli incassi per biglietti. Vuol dire che l'effetto educativo funziona. La domanda, cioè, da quando ci sono le telecamere, sta dicendo? No, anche da prima, perché stavo dicendo che i controlli li facciamo perché producono questo effetto positivo. Ah, certo. Quindi partendo da questa base, diciamo, di controlli, poi si inserirà anche il tema delle telecamere al collo. Li rafforziamo perché vediamo che il meccanismo funziona. Dei controllori. Però mi faccia dire una cosa, mi faccia aprire un tema, scusi. Sì, Bulgarelli, mi faccia dire una cosa. C'è il tema della privacy, no? Perché comunque queste telecamere ci riprenderanno tutti. Allora io lo chiedo a lei, lo chiedo anche agli ascoltatori all'800 24 00 24, se il giusto intento di stanare chi non paga il biglietto, diciamo, vale la questione di essere comunque ripresi, perché poi quello che accadrà, anche se voi date garanzie su questo, dopo alcune ore 24 ore dovrebbero essere cancellate le immagini, sì, giusto? Noi abbiamo fatto questa idea, ce l'abbiamo già da molti mesi, cioè già dall'anno scorso, quindi la sua attuazione ha comportato una ricerca e consulenze puntuali per quanto riguarda proprio il tempo della privacy. E devo dire che ci è venuto incontro in modo importante il decreto uscito nel giugno, a fine di giugno scorso, il decreto 50, che esplicitamente prevede la possibilità per le aziende come le nostre di installare sistemi di videosorveglianza, e nel momento in cui non specifica che questi servizi siano, questi sistemi siano o fissi o mobili, noi abbiamo integrato quelli fissi esistenti con questo di fatto mobile, quindi perfettamente all'interno delle norme così come sono state scritte, ripeto, nel giugno. No, ma in precedenza noi abbiamo fatto un lavoro che parifica l'uso di queste telecamere a quelle già esistenti e perfettamente in norma. Sarebbe un bel momento, Bulgarelli, se Carlo ci raccontasse in 3 secondi nel suo libro l'episodio del biglietto del biglietto di tuo padre. Tu lì hai imparato la questione del che bisogna pagare. Che bisogna pagare il biglietto, sì. Io l'ho trovato bellissimo. Ti ringrazio molto. In brevissimo tempo siamo arrivati in stazione centrale e mio padre, mi ricordo, pioveva, siamo andati per comprare i biglietti del tram. Non abbiamo trovato i biglietti del tram perché erano terminati dal tabaccaio, quindi siamo usciti dalla stazione centrale. Mio padre ha visto il tram arrivare, era indeciso, ha detto va bene, saliamo sul tram senza biglietto. Noi eravamo nel panico, che con mio padre senza biglietto è una cosa che non era mai successa. Alla fine non succede assolutamente niente, non c'era il controllore, arriviamo a casa, mio padre prima di arrivare a casa entra in un bar, compra 3 biglietti del tram, li strappa e li butta via. E io dico, papà, ma che cosa stai facendo? Quei biglietti lì erano ancora buoni. Lui fa, no, non erano buoni, sono i biglietti che abbiamo usato per venire, per andare da stazione centrale a casa. Dico, ho capito, ma il controllore non ci ha beccati. E lui giustamente mi dice, ma il biglietto mica lo si paga per paura di essere preso dal controllore, lo si paga perché è giusto così. Una comunità decide di mettersi insieme, ognuno mette una piccola quota di modo che paga meno il trasporto pubblico. Bulgarelli, fossero tutti così. Suo padre è una persona straordinaria, lo nominerei viaggiatore onorario della nostra azienda. Fossero tutti così. La ringrazio, però io volevo invece aggiungere una domanda, nel senso che giustamente le stava dicendo è assolutamente nella legalità, però io mi chiedo, non stiamo esagerando con queste telecamere? Nel senso che capisco che a questo punto c'è un aumento di persone che pagano il biglietto, ma anche 40 anni fa credo che ci sia stato il problema e le persone pagavano il biglietto, quindi adesso addirittura oltre alle telecamere fisse avere anche delle telecamere mobili. Ovviamente sarà molto contento il cinema perché finalmente avremo immagini, non solamente quelle noiosissime immagini ferme, ma anche delle immagini in movimento. Però le chiedo, non si sta esagerando? Guardi, lei ha ragione, nel senso che purtroppo stiamo trasformando anche, adesso parlo sempre per il nostro settore, i nostri autobus come degli alberi di Natale pieni di aggeggi e diavolerie varie. Ma questo è conseguenza di situazioni che si sono davvero aggravate. Ripeto, l'aggressione al nostro personale è un episodio ancora non così frequente, ma in crescita decisa. Per esempio, i danneggiamenti alle sedie, ai vandalismi. Noi abbiamo acquistato qualche mese fa mezzi nuovi, do un'informazione, un autobus nuovo costa attorno ai 220.000 euro, quelli urbani. Dopo 10 giorni abbiamo dovuto riportarli in officina perché fortemente danneggiato, sedili divelti. Abbiamo purtroppo una recrudescenza di comportamenti, diciamo, maleducati, quando non chiaramente criminali, nei confronti dei quali dobbiamo prendere qualche misura in più. Purtroppo il ricorso alle telecamere diventa uno degli elementi quasi obbligatori per poter costituire una maggiore deterrenza a questi comportamenti. Bene, vedremo, Bulgarelli, vedremo anche cosa ci diranno più avanti nel corso della puntata gli ascoltatori, se questo si può fare, li ha convinti. Intanto aspettiamo che voi iniziate, partiate e vedremo come andrà a finire. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Wait a minute, shake your arm. E allora, cari ascoltatori, siamo a Londra, c'è un si può fare, che è questo. Intanto viene confermato lo stop alle auto diesel e benzina a partire dal 2040. E poi c'è il sindaco di Londra che dice: devo intervenire sulle scuole dove ci sono i bambini a rischio smog, perché questa è una cosa che non è più tollerabile. E quindi questo è il si può fare che noi vogliamo approfondire con Ivana Bartoletti. Buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovata Ivana, lei è stata candidata alla London Assembly, al Consiglio Comunale di Londra per il Partito Laburista, che adesso governa la città con il sindaco Sadiq Khan. Lei è esperta di diritti umani, direttrice della rivista Fabiana, ma è anche una un manager, credo che lavori nella sanità pubblica londinese, così? Ho lavorato. Mi occupo di privacy, faccio una consulente nell'ambito dei diritti, della privacy, dei diritti personali. Comunque. Ah, perfetto, quindi nel caso gli facciamo anche delle domande sulle telecamere sugli autobus, che ne abbiamo appena parlato. A Piacenza, è un'altra cosa. Però lei vive a Londra, lavora lì e quindi è la nostra voce di Londra. Allora, questa stretta, questi continui annunci, questa volontà di intervenire contro lo smog, adesso c'è questa preoccupazione in particolare del sindaco di Londra per i bambini, sono annunci, si fa sul serio, sta cambiando la vita lì a Londra? Londra cambierà? Ah, cambierà perché sarà Brexit, quello di sicuro, ma il tema fondamentale è che Londra è una città veramente, veramente inquinata. Io sto guardando ora il grigio dalla finestra, non solo per il clima, che ovviamente a Londra è stesso grigio, ma diciamo l'inquinamento è forte ed è un problema che va assolutamente affrontato. Il sindaco è stato chiarissimo fin dalla campagna elettorale dicendo che voleva affrontarlo con serietà. Il problema ovviamente è che non basta il comune, ma ci vuole un'azione forte anche da parte del governo. Lui ha detto chiaramente qualche giorno fa, ha detto ci sono 90 scuole a Londra che sono veramente a rischio di alto inquinamento e che sono veramente esposte a rischio enorme. E quindi lui ha detto diamo la possibilità a queste scuole di innanzitutto di fare una verifica di quali sono i livelli di inquinamento e poi dopo di poter intervenire in vari modi attraverso cambiare l'accesso e dal punto di vista delle strade e ovviamente davanti spesso in queste scuole c'è anche oltre al traffico normale c'è anche una congestione in più nelle ore mattutine. oppure se c'è bisogno di creare delle aree verdi intorno a queste scuole. Quindi lui ha detto: cerchiamo di dare il potere a queste scuole di poter cercare insieme una soluzione insieme. Questo già mi sembra un dato, forse perché noi siamo in Italia e guardiamo anche noi fuori dalla finestra, ma vediamo dell'altro, nel senso che ci sembra molto buono che il sindaco abbia detto ascoltiamo queste scuole, ascoltiamo sì. che idea hanno loro, anche perché poi ognuno ha provato a risolvere i problemi da solo in casa propria, quindi ci sta che dica la propria cosa, che invece da noi di solito arriva un decreto e poi ci sono tutti che si lamentano, non dicono nessuno ci ha ascoltato per questo problema, è così? Sì, si lamentano anche qui. Di questo siamo contenti, pensavamo che con la Brexit lì andasse tutto bene e da noi tutto male. No, con la Brexit non va bene per nulla, però e tra l'altro anche sull'ambiente, perché uno dei motivi per cui era, diciamo, durante la... si diceva, si guardavano i livelli di inquinamento a Londra, si diceva si poteva fare un'azione dicendo bisogna abbassare i livelli di inquinamento, era anche perché grazie ai livelli imposti dall'Unione Europea, quindi c'è anche un grosso, diciamo, punto di domanda su quale poi sarà il livello di attenzione dopo Brexit. Ah, certo, questo non ci avevamo pensato, nel senso che la comunità europea dava dei limiti più bassi, mentre adesso che l'Inghilterra può decidere da sola potrebbe essere che i limiti vengano alzati? Sì, ovviamente dipende dal governo, dipende da cosa si decide di fare, possono essere più bassi o essere più alti, però dipende dalla volontà politica di un paese solo rispetto alla volontà politica collettiva, e che è un po' il tema di Brexit. Quindi questo è, secondo me, un grosso punto di domanda, perché bisognerà capire cosa succederà nel futuro, ma io mi ricordo proprio in certe zone di Londra centrale, io sono una ciclista, vado in giro in bicicletta, che si andava proprio a verificare il livello di inquinamento e si comparava con il livello, si paragonava a livello europeo. Certo. Un'altra delle altre cose buone che... Abbiamo pochi secondi, dobbiamo chiudere, quindi in pochi secondi. Dicevo, è appunto è l'investimento sul ciclismo che qui c'è e che Sadiq Khan ha fatto come una delle sue priorità. Non è facile una città come Londra, però mi pare che la volontà ci sia. Bene, grazie Ivana Bartoletti. E poi Londra è in pianura, no? Mentre per esempio Roma, la nostra capitale, ci sono molte salite. Ogni volta che parliamo di bici, i romani si lamentano: ma come si fa a Roma a pedalare? È vero, 800-24-00-24. Ma è anche bella grande, però. Cerchiamo anche un personaggio della settimana che ha tante qualità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, 9:09, ben ritrovati in diretta con Si può fare, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, e vi dico anche che è spuntato un po' di sole, parliamo sempre solamente di Milano, anzi una piccola parte di Milano via Monte Rosa. 800-24-00-24, vi aspettiamo per stare insieme, siamo partiti dalla notizia delle telecamere a bordo degli autobus, al collo dei controllori degli autobus di Modena, Reggio e Piacenza, una novità per stanare quelli che non pagano il biglietto, però... Cerchiamo insieme a voi anche un personaggio della settimana che ha tante qualità. Tra poco qualche telefonata e poi tra poco ancora un secondo indizio. Due notizie intanto che sono due aggiornamenti. Ce n'è una che riguarda, vi ricordate il castello di San Mezzano? Ne abbiamo parlato moltissimo. Come no? Un raro esempio di architettura orientalista dell'Ottocento che è in una situazione incredibile perché il vecchio proprietario è fallito, la gestione è andata all'asta, si è presentato, lo sapete, una società araba, la Punet Gop Sahani, che sembra che faccia capo a un imprenditore di origine indiane, però una società di diritto emiratino, quindi degli Emirati Arabi. La globalizzazione che ha avuto il ricorso dell'ex proprietario, quello che è fallito. Adesso però lunedì, cioè domani, il tribunale metterà una parola fine e sembra che tutto converga verso la vittoria all'asta di questa società emiratina, che però la buona notizia è questa, non farà soltanto un resort da 50 milioni di euro come annunciato, ma terrà la parte centrale del castello adibita a museo aperto a tutti, come chiedono gli amici di Save San Mezzano. Esatto, quindi una buona notizia. E da un luogo bellissimo a un altro luogo bellissimo, e da un luogo di cui abbiamo parlato tanto a un altro luogo di cui abbiamo parlato tantissimo, ovvero la Reggia di Caserta. Nello specifico, la fontana della Reggia di Caserta ospiterà la gara di canottaggio Oxford-Cambridge. È una buona notizia, la regata si terrà il 23 di settembre, quindi fra pochissimo. Convocheremo Felicori, secondo me, per esatto, forza. Ma secondo me per fare proprio tutta la telecronaca, anche perché ho letto che è il posto ideale per rifare questa storica sfida fra gli equipaggi di Oxford e l'equipaggio di Cambridge, perché la vasca, che è lunga 483 metri, permette negli ultimi 350 metri di fare uno sprint incredibile, perché essendo la vasca larga solamente 30 metri, consente agli sfidanti di guardarsi negli occhi, quindi sarà una bellissimo, telecronaca straordinaria. Telecronaca alla Galeazzi, esatto, qua, legato a questo avvenimento. Poi in realtà è nata la Reggia Challenge Cup e il canottaggio, quindi anche tanti altri equipaggi, anche equipaggi italiani, si scontreranno gli uni contro gli altri. Una buona notizia più importante, più generale di questa settimana è l'autorità garante per le comunicazioni che dice stop alle compagnie telefoniche per la questione della fatturazione a 28 giorni, deve tornare a essere mensile. Sentiamo il ministro Finocchiaro su questo. Ricordo che gli operatori del settore della telefonia che avete nominato e l'impresa Sky hanno progressivamente modificato la cadenza delle fatturazioni, portandola una volta ogni 28 giorni, con un aggravio dei costi per i consumatori. Non possono essere messi in discussione i principi fondamentali di tutela e di trasparenza a favore degli utenti dei servizi. In questa condotta si legge infatti un comportamento scorretto verso i consumatori che pagano queste iniziative in prima persona e di tasca propria. E speriamo che questo procedimento arrivi. Sì, soprattutto non può essere messo in discussione che i mesi sono 12, nel senso che riuscire a inventarsi un modo per dirti io ti vendo un abbonamento mensile ma i mesi diventano 13, insomma. Allora, Antonio da Modena, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, come va? Buongiorno. Benissimo, tu? Benissimo. Antonio? Volevo parlare del... Abbassa la radio, ascoltaci solo per telefono, sì, sì. Grazie, così abbiamo il ritorno. Scusa, no, vai, volevo, vai. Volevo parlare delle telecamere poste sopra agli autobus nella provincia di Modena, a Modena, certo, a Piacenza. E mi sembra una cosa molto, molto buona questa qua, perché intanto mi ha molto colpito il papà del presentatore, che è andato al tabacchino una volta sceso dall'autobus, ha strappato i 3 biglietti e ha detto noi abbiamo usato una corsa, quindi io i biglietti li strappo, e questo è stato un gesto civile molto molto bello. La ringrazio, stiamo parlando di mio padre, quindi mi commuovo perché è un pezzo del mio libro, e la ringrazio moltissimo. No, no, ma ci mancherebbe altro. No, ma io ho vissuto a Londra, visto che prima si parlava di Londra, del clima, sì. Io posso parlare della mia esperienza riguardo a Londra, perché ho vissuto parecchi anni a Londra, e le telecamere lì ci sono dappertutto, ci sono sugli autobus, ci sono a tutti gli angoli delle strade, e la gente non li tocca minimamente. Va bene, Antonio, grazie. Sì, questa è Londra, però adesso andiamo con Rosita, che chiama dalla provincia di Torino. Voglio sentire due o tre ascoltatori al volo, perché finora non abbiamo ancora sentito nessuno. Vai, Rosita. Buongiorno. Buongiorno. Io sono stata in Germania. Sì, bene. E ho visto che non puoi salire sull'autobus e non pagare il biglietto. Perché? Perché c'è una piccola sbarra, sì, tra quanto sali e l'autista. Poi se non hai il biglietto, non è come qui che devi correre come un pazzo e magari come un papà lì non riesci a prendere il biglietto. Perché sì, vicino alla fermata del pullman c'è la possibilità, c'è una macchinetta e ti fai il biglietto. Non sono mai rotte queste macchinette, eh? Non saranno mai rotte. Siamo in Germania. No, però è importante, Rosita, questo che hai detto è importante, perché quindi c'è la sbarra che non ti fa salire, come mi pare che ci fosse un tempo anche da noi, o no? Anche da, no, da noi c'era il bigliettaio che ti accoglieva. Il bigliettaio in coda al... Sì, al... sì. Esatto. Ma infatti la domanda che io avrei fatto a Bulgarelli, non c'è stato tempo, di Seta, è proprio questa, perché l'innovazione delle telecamere al collo è un'idea, però più semplice ancora è quello appunto di mettere per la sicurezza, ho visto che c'era un microfono sempre aperto a fianco dell'autista. Poi un giorno sono entrati tre ragazzi che non avevano il biglietto, non avevano sufficiente investimenti i soldi, li ho fatti scendere, punto. Però mi scusi, se mi permette di fare una battuta, un sì. microfono aperto al controllore in Italia è impossibile, perché ognuno andrebbe lì a dire la sua, a dire la formazione della nazionale, a fare l'allenatore, diventa molto complicato. Tanto che non c'è speranza per noi. Ma io non ho capito una cosa, Rosita, cosa serve il microfono? Cosa fa? A chiedere aiuto. Il microfono, da quello che ho capito, e per lo meno per quello che credo l'ho capito, è sempre acceso. Lui è sufficiente che prema un pulsante e si mette in contatto con la centrale, con qualcuno. Ah, ok, esatto. ok. Va bene, Rosita, questa qui è la puntata degli autisti degli autobus, dei frequentatori degli autobus. Chiamate, perché ogni volta che si apre questo capitolo poi arrivano milioni di telefonate con le esperienze. Ma anche i portoghesi, noi ascoltiamo anche i portoghesi e promettiamo che rimarrete anonimi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, buongiorno Emma Bonino. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta. Allora, grazie. Il punto che vogliamo fare con Emma Bonino è questo. La sua proposta di legge, per cui sta raccogliendo delle firme, un'iniziativa di legge popolare, perché sul tema dell'immigrazione. Una proposta che ora lei ci spiegherà nel dettaglio, ci dirà quali sono i punti forti. Però la sensazione che già si ha è che, comunque la si pensi su questo tema dell'immigrazione, questa proposta ha il merito di essere tale, cioè di affrontare un po' complessivamente questo tema, che forse è il tema proprio di questi nostri anni, che di cui si è tanto discusso, tanto discusso, e si è poco riusciti a governare questo fenomeno, un po' perché probabilmente è un fenomeno difficile da governarlo, un po' perché politicamente si ha la sensazione che sia stato un po' sottovalutato, semplifichiamo, no? Dalla sinistra, e un po' strumentalizzato a fini elettorali dalla destra. Vado proprio per semplificazione, ma tutti noi possiamo capire a cosa ci riferiamo. Bonino, quali sono poi i punti cardine di questa sua proposta? Questa proposta nasce dal fatto che nel nostro paese, al di là del problema della mobilità globale, eccetera, eccetera, su cui, se volete, torniamo, in ogni caso nel nostro paese ci sono circa l'8% di stranieri perfettamente integrati, che producono l'8% del PIL e avanti di questo passo. Sono contributori netti all'INPS. Mi sa anche di più dell'8% producono, nonostante siano solo l'8%. Insomma, adesso non... Vabbè, per prudenza diciamo l'8%. Va bene. No, va bene. Ma e non pongono grandi problemi, ma il problema invece è che siccome la Bossi-Fini non prevede nessun canale regolare per entrare in Italia, in realtà... noi abbiamo sul nostro territorio una presenza di 400-500.000 sostanzialmente clandestini / irregolari, ossia gente che non ha i documenti di permesso di soggiorno, i titoli, certo. In regola, o perché l'ha perso, è scaduto, o perché è stato licenziato, insomma, per vari motivi, e quindi rimangono sul nostro territorio in una situazione di fuori regola dal punto di vista dei documenti. Il risultato sono o impiegati nel mercato del lavoro nero, moltissimi, oppure per tirare a campare sono a volte anche usate da narcotrafficanti, oppure partecipano ad altri elementi di criminalità, oppure sono vittime di prostituzione forzata. Insomma, un esercito di quelli che, come dire, vediamo dormire per strada insieme, peraltro, ai poveri italiani, che ce ne sono anche lì tanti. E in questo modo ha creato un disagio e comunque non è utile né per loro né per le casse dello Stato. E quindi è una proposta che riprende alcune norme della antica, della più normativa antica turco-napolitano, sì, e quindi riapre ad esempio l'introduzione del permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione, la reintroduzione del sistema dello sponsor a chiamata diretta, anche a parte di singoli privati, la regolarizzazione ma su base individuale di stranieri già radicati, dicevo, quelli che si trovano al lavoro nero, nuovi standard per riconoscere le qualifiche professionali, insomma tutta una serie di misure, per esempio per l'inclusione attraverso il lavoro dei richiedenti asilo e soprattutto l'ampliamento del sistema SPRAR, quindi puntando su un'accoglienza diffusa e capillare sul territorio. Prego. Tutto questo sarebbe anche utile, diciamo, per le casse dello Stato. C'è stata una inchiesta appena uscita che tutta questa gli immigrati che lavorano senza tutele, un tesoro sommerso sostanzialmente da 12 miliardi e quindi un gettito perso. Cioè fare emergere tutta questa economia sommersa legata a questa irregolarità di cittadini che sono irregolari è un costo e quindi potrebbe essere invece un introito, lei dice, un'emersione. E fa molto bene, sì, a ricordarlo, nel senso che il superamento della Bossi-Fini, esattamente questo, che la Bossi-Fini in realtà rendendo in pratica tutti illegali, a parte quelli che già erano in regola, in realtà non aiuta per niente a regolarizzare queste persone, ma mette questo mezzo milione di persone in mano alla criminalità. Esattamente. E togliendo un sacco di soldi allo Stato italiano, fa molto bene a ricordarlo, perché nel posto giusto, essendo qua a Radio 24, anche per i nostri ascoltatori, che sennò uno pensa che sia sperpero, è esattamente il contrario. Fanno, cioè, regolarizzarli, lo sperpero è stata la Bossi-Fini. Però una domanda che le voglio subito fare è questa, perché il cardine, uno dei cardini di questa proposta è proprio quello di ritorno alla chiamata diretta, al permesso temporaneo per ricerca di lavoro. Però la domanda è questa, c'è ancora in Italia, lei ha ricordato, dove c'è già una componente dell'8% dei cittadini stranieri che si sono in gran parte inseriti anche nel mercato del lavoro, si diceva fanno lavori che gli italiani non fanno più, ma questo è ancora vero oggi, oltre poi forse a esserci anche un tema di diritti che andrebbe in qualche modo affrontato, però la quota di stranieri in Italia è già ampia, c'è ancora la possibilità di dare un lavoro agli stranieri secondo lei? Ma guardiamo i settori dove sono più impiegati, per esempio in agricoltura, se non ci fossero gli stranieri non c'è un italiano uno che vada a raccogliere i pomodori. Nelle costruzioni, manovali e edili sono tutti stranieri, perché giustamente, come succede, come è l'aspirazione normale, ogni famiglia italiana, se può, vuole che il figlio salga nella scala sociale, come è normale che sia. Le badanti, se lei guarda le badanti, più di 800.000 famiglie le usano, è molto difficile, si trova ancora qualche babysitter italiana per qualche ora, ma la badante che abita in casa, che si cura del nonno dalla mattina alla sera o dei malati, di italiane non ce n'è più nessuna. Com'è normale che evolve una società, gli altri paesi più o meno hanno la stessa dinamica sostanzialmente. Tenga anche conto che c'è peraltro un declino demografico notevole nel nostro paese, non solo per diminuzione delle nascite come in Spagna, in Portogallo, in Germania, la Bulgaria, avanti di questo passo, ma perché ovviamente anche gli italiani si muovono magari per studio o per cercare lavori migliori. Mi pare che le cifre sono che l'anno scorso 130.000 persone hanno lasciato l'Italia o per passare alla pensione in qualche altro paese o per cercare lavoro. Quindi sì. Noi abbiamo semmai un problema di calo demografico e rischiamo di arrivare a un punto non tanto lontano nel tempo, 2040-2050, in cui senza questi nuovi arrivi non tiene, diciamo, la barra, il rapporto tra lavoratore e pensionati. Ma come fanno a convivere queste due visioni o queste due narrazioni? Nel senso che giustamente continuiamo a sentir dire che in realtà c'è poco da fare, non solo ne abbiamo bisogno, ma senza gli stranieri chiuderebbero le scuole e non avremmo i soldi per pagare le pensioni, e la narrazione che invece ne fa la destra, in cui siamo invasi e l'unica soluzione sarebbe non averli. Ma scusi, perché una cosa è guardare le cifre e una cosa è dare i numeri. Certo, che può anche essere una battuta, detto così. No, partire dalle cifre è una cosa, dare i numeri è un'altra cosa, evidentemente. L'invasione, certo, come dire, è più drammatizzato il fatto che non arrivano regolarmente, quindi ogni giorno c'è la storia del barcone, dei naufraghi, drammatica, eccetera. Quindi è più indubbio che ci sono stati e ci sono dei veri e propri imprenditori della paura. Certo. Per cui questi immigrati sono ormai il capro espiatorio di qualunque cosa, mi ci mancava solo più la zanzara, che anche lì, certo. La quale zanzara anche lì era portata a pare da immigrati, senza che nessuno si renda conto o dica nei loro giornali che sono milioni di italiani che vanno in vacanza o in lavoro in questo tipo di paesi, e che sono milioni e milioni di container che arrivano da quei paesi e che vengono aperti in Italia, perché il commercio così funziona. Certo. No, tutto questo no. Poi abbiamo avuto la settimana degli stupri, che io non nego affatto ed è un dramma, ma dico semplicemente che sempre lì, a partire dalle cifre senza dare i numeri, questo crimine insopportabile ha una quota di protagonisti italiani, di italianissimo passaporto, che è rilevante. Che okay? Non è seconda a nessuno. No, questo è facciamo la nostra parte, come si dice. Esatto. Senta, Bonino, c'è in questo, anche come diceva Carlo e come diceva lei, in questo incontro di narrazioni, no, queste due visioni opposte che si scontrano, c'è nel mezzo, in queste settimane, è stata la questione dello Ius Soli, che adesso il governo, la maggioranza, ha deciso di rimandare. Le voglio chiedere, non è stato un errore chiamarlo così, cioè dando l'idea che chiunque arriva in Italia immediatamente fa un figlio e il figlio diventa italiano, cosa che invece la legge non propone? Sarebbe stato forse più logico chiamarlo Ius Culture, perché sappiamo che in questo caso la cittadinanza va al ragazzo che ha fatto un ciclo di studi o figlio di un genitore stabilmente con un lavoro presente in Italia. Cosa ne pensa di questo? No, usare un linguaggio appropriato normalmente aiuta, può darsi, però devo dire che io... è ammesso che lei abbia ragione da questo punto di vista, e rimane il fatto che però tutta una parte anche di media, di vostri colleghi, di opinione pubblica in realtà ha detto vere e proprie bugie. Cioè, io sono contro l'ordine dei giornalisti, ovviamente contro gli ordini. Io non sono un giornalista, l'avviso. Io non ho un'opinione a riguardo, sono giornalista, ma non ho un'opinione a riguardo, quindi non mi turbo. Io sono contro gli ordini, ma se c'è dovrebbe funzionare. Sì. Allora, quando uno vede per giorni e giorni titoli sguaiati della serie diamo la cittadinanza a chi sbarca, è come se uno desse la cittadinanza sui gommoni, qualcuno dovrebbe richiamare all'ordine, perché a parte che ovviamente è legittimo avere opinioni diverse, ma la libertà di opinione si ferma alla bugia, certo. Si ferma alla calunnia, tant'è che questa campagna nasce proprio con i banchetti per strada, eccetera eccetera, proprio per cercare di raccontare alla gente un racconto diverso rispetto a quello che andava per la maggiore, che continua ad andare per la maggiore, che continua su l'invasione, ci rubano il lavoro, ci costano e avanti di questo passo. Quando, peraltro, per fortuna, si sono in base allo sprare, quindi persino a legge vigente, delle ottimi esempi di integrazione per piccoli gruppi. Certo è che se poi passiamo il tempo a la polemica perché il prete ha mandato, portato sette ragazzini in piscina, l'altra polemica a un certo punto siamo sugli stupri, poi siamo allora a forza di rincorrere e di ingrandire elementi di cronaca veramente fuori senso, noi rischiamo di perdere il senso del tema che trattiamo, che già è complesso di per sé, non è che è un tema facilissimo, e l'integrazione è stata sempre difficile in tutta la storia dell'umanità e in tutti i paesi. Non è che c'è una ricetta, come dire, miracolo, che basta applicare quella. Ma per esempio, anche qui, l'integrazione nella scuola può cominciare a dare anche il senso che questo paese, ovviamente per lavoro, ma è anche un paese di diritti e di doveri per il rispetto delle donne, contro le mutilazioni genitali femminili. Nel nostro paese non si sposano le bambine a 10 anni. C'è tutto un lavoro di diritti e di doveri. Proprio per questo dobbiamo superare questa legge, che è una legge antiquata. Segnalo però che proprio grazie a questa legge, all'inizio degli anni 2000, fu fatta una sanatoria che fece uscire dal mercato nero e regolarizzò, con qualche contorsione un po' ipocrita ma fa niente, 750.000 persone in un colpo. E se lei guarda la stampa di quel periodo, non ci furono né allarmi, né allerte, né manifestazioni, né quindi la manipolazione politica è quella che ha reso più difficile. Se lei pensa che Orban si è inventato tutta questa, diciamo, propaganda, come lei sa, e questa nuova linea politica, quando la quota che l'Europa chiedeva, l'Europa Bruxelles chiedeva a Orban di accettare, erano 1300. Una cosa ridicola. E da lì è nata invece tutto. Senta Bonino, quante firme avete raccolto? Come si fa se uno volesse aderire e partecipare a questa iniziativa popolare, allora, che sta portando avanti lei? Sì, beh, siamo oltre le 35.000, 36.000, ne servono legalmente 50.000, ma vogliamo arrivare a 60.000 per essere sicuri. Come si fa a partecipare? Per vedere dove stanno i tavoli, eccetera, basta andare o sulla pagina Facebook erostraniero.it oppure sul sito radicali.it, e c'è l'elenco dei tavoli giorno per giorno, perché noi possiamo fare i tavoli. Bene. Come lei sa, ci deve essere l'autenticatore. Certo. Tutto quello di cui, fra l'altro, voi radicali siete fortunatamente espertissimi. Andate, firmate, secondo me, perché questa proposta di legge, anche se non la condividete, ha però il merito di affrontare questa questione in maniera complessiva e di riaprire, speriamo, il dibattito, magari in questo o nel prossimo Parlamento, su un tema così importante che, insomma, deve trovare una sistemazione, una legge, un dibattito parlamentare importante, anziché essere affrontato a spizzichi e bocconi. Grazie Emma Bonino, in bocca grazie al lupo. Mille. Un abbraccio, a presto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Chiamate 800 24 00 24 perché si vince un libro. Chi indovina il personaggio della settimana, che ha tante qualità. Rita da Milano, buongiorno. Pensavo di dover dire un altro indizio, invece aspettiamo. Adesso lo diamo. Però prima Rita, vai Rita. Buongiorno. Bravissimi innanzitutto. Grazie. Volevo, secondo me però, Carlo Cracco. Carlo... per la serata che ha avuto per i 150 anni della Galleria di Milano. Ancora spiega la notizia qual è? Ha tenuto cioè ha fatto l'inaugurazione del ristorante sotto la galleria e ha ospitato, mi sembra, molti personaggi della Milano Bene. Sì. E quindi hanno festeggiato in perché questo c'è modo. Stata questa celebrazione c'è in galleria a Milano dei 150 anni, sì. Giusto. Ma noi ci stavamo chiedendo come mai ha tante qualità. Quello è il punto. Nel senso che intende che ha tante adesso qualità di zucchine, vedere. Per esempio, nel senso che cucina zucchine che diverse. Cucina, è forse questo, però. Per l'ha questo buttata detto. Lì, l'ha buttata lì. Non era il nostro personaggio, mi spiace molto. Chiedo perdono, ma perché? Ma non deve chiedere perdono, siamo felici che lei abbia chiamato. Grazie. Allora, Carlo, dallo un altro indizio, vai, così aiutiamo gli ascoltatori che devono ancora rodarsi. Un altro indizio, ed è tra l'altro, va assolutamente in linea con il personaggio scelto dalla signora, perché il secondo indizio è che il nostro personaggio ha esordito. Benissimo. Quindi andava bene per qualcuno che apriva un nuovo ristorante. Ripeto, 800 24 00 24. Gli ascoltatori devono rodarsi sulla nuova puntata della domenica, perché cominciamo prima, abbiamo cambiato un po' di cose. Quindi chiamate, dai, vai. Allora, si può fare, questa volta viene dalla Toscana, dove nel periodo contrassegnato dagli anni della crisi, cioè fino ad oggi, a partire dal 2007-2008, Confesercenti segnala che sì, sono chiusi tanti negozi, tante attività, li vediamo chiudere nei nostri quartieri, purtroppo sono librerie, cinema, attività, negozi di abbigliamento, eccetera. Ma e noi ne parliamo spessissimo. No, complessivamente il saldo delle attività commerciali è positivo, voi non ci crederete, ma è così. Allora, ce ne sono dei settori che tirano, ce li facciamo raccontare da Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ci illustri questi dati, Gronchi. Per fortuna, dopo 10 anni, cioè all'anniversario della crisi, era l'ottobre 2007, siamo ad ottobre 2017, i numeri sono positivi. Sono dati che hanno dato uno scenario in Toscana difficile, perché è cambiato tutto, questo sì. Abbiamo sempre meno negozi di abbigliamento, sempre meno negozi di calzature, abbiamo centri storici che sono un po' peggio di prima, ma sono stati sostituiti nel corso degli anni da una quantità incredibile di attività del food. Il si food, mangia, come dico sempre, il cibo. Quasi al numero civico. Se voi suonate a qualcuno, vi risponderà dicendovi se volete mangiare, perché ormai è un'invasione totale. Ma questo è un dato positivo, perché di fatto abbiamo città che sono profondamente cambiate, ma città vive. In cui... Quindi si può dire che a volte le invasioni sono positive? Ma questo è un caso di quelli, sì, che è davvero positivo. Sta succedendo in giro per l'Europa anche, non siamo gli unici che sono un po' vittima di questo fenomeno, perché in generale si compra sempre meno moda nei centri storici, nei centri delle città, a favore per esempio di e-commerce o di auto e di altre strutture, e c'è invece una voglia di tornare a vivere nelle città sempre più forte, e questo è avvenuto in tutta la Toscana, in particolar modo a Firenze, in cui si va per mangiare, bere, fare un aperitivo, cenare, stare insieme, viversi, cioè la città. Cioè si va in giro, si mangia, e si diventa obesi, non ci si sa più come vestire, ecco perché chiudono i negozi di abbigliamento, i negozi chiudono Gronchi, perché c'è la questione del web, no? Si compra sul web, quindi sta crescendo il settore, come ricordava anche oggi il Corriere della Logistica, legato ad Amazon, eccetera, eccetera, o ad altri venditori online, però i piccoli negozi chiudono, quindi le città, diceva lei, stanno comunque cambiando volto. Se il saldo delle attività torna a essere positivo, e questa è una buona notizia, questo nuovo volto delle città, come ci stava raccontando lei, dobbiamo comunque accoglierlo positivamente. Cioè, uno dove si gira, ci sono o pizzerie o gelaterie o posti dove si va a mangiare. Ma è solo è solo il cibo, a parte, esatto, che possiamo tornare a chiamarlo dell'altro? Cibo. O ci sono altre cose che sono delle novità? Allora, quello che gli inglesi chiamano leisure, cioè il divertimento, tutto quello che è legato all'effetto spettacolo della città è il nuovo che sta un po' avanzando. Lentamente in Italia, in maniera molto più forte in giro per l'Europa, ma per esempio se andiamo in alcune capitali europee, ormai certi negozi di abbigliamento sono quasi delle discoteche, sono luoghi in cui è l'esperienza che fa la differenza. Per dirla con una battuta, sì, probabilmente fra 10 o 15 anni non ci sarà difficile comprare un paio di scarpe o un maglione nel centro di una città, ma sarà semplicissimo passarci qualche pomeriggio o qualche nottata, magari con gli eventi che ci sono in città. e non è detto che questo sia per forza un bene a prescindere, ma è una trasformazione che ormai è in atto, di cui dobbiamo prenderne atto e farcene tra l'altro una ragione. Noi dobbiamo accompagnare le imprese verso questo nuovo modo di essere città, di vivere le città. E soprattutto non è detto che sia un male. Esatto, è difficile dare una lettura troppo estrema, né in un senso né in un altro. Certo. Sta cambiando, è un'altra città quella che si sta affacciando. Ad esempio portandoci dietro un problema non banale, per i centri più piccoli. Quello che stiamo dicendo vale molto per città con presenze turistiche, per città in cui certo. c'è una forte vitalità. È un po' più difficile nei centri minori, in cui per esempio c'è un dato che dal mio punto di vista è molto rappresentativo. Abbiamo un negozio di alimentari ogni 1200 abitanti, quindi per comprare una zucchina o un pacco di latte sta diventando complicato nei centri più piccoli, e questo è uno degli effetti per esempio negativi di questa trasformazione. Insomma, certo, bisogna ancora lavorarci su. Lavorarci, forse come diceva lei prima, siccome anche l'industria del divertimento da un certo punto di vista sta molto crescendo, forse per i centri più piccoli è inventarsi delle manifestazioni, inventarsi dei festival, come in realtà moltissimi stanno facendo, soprattutto in Italia, che anche il centro più piccolo comunque è bellissimo e può invitare e può organizzare un festival al proprio interno. Ci sono dei luoghi del nostro paese, e la Toscana è una fra queste, che sono di una bellezza prorompente. Usiamo, viviamo e proponiamo, raccontando questa bellezza in un modo che ci faccia diffondere in tutte le nostre città il turismo, la qualità della vita, cioè quello che c'è di bello. Benissimo. Abbiamo le condizioni per farlo. Non solo voi in Toscana che siete partiti avvantaggiati, posso mettermici anch'io perché sono toscano anch'io, però ne valga per tutti. Resta poi, ringraziamo intanto Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, resta da capire dove la zia Pina andrà a comprare le scarpe o il golf, perché poverina, lei sul web non ci sa andare, i negozi non ci sono più, facciamo qualcosa anche per la zia Pina. La zia Pina. Intanto abbiamo Francesca che chiama da Roma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamavo per la risposta. Sì. Sì. L'iPhone 10? Perché? Perché è uscita questa settimana, ha tantissime caratteristiche particolari, me lo sposo nel 2037 e pensavo che ha esordito questa settimana, quindi mi è venuto in mente lui. Ha esordito a tante qualità, è lui. Francesca, noi ti premiamo, tu vinci il libro, a noi ci rimane il dubbio, perché quanto costa quell'oggetto di 1000? Ma non ha detto che non 200. È un telefonino, No, è un appartamento, un mini appartamento, c'è dentro tutto. È un'illusione. È un'illusione. Ragazzi, prima di comprare, pensateci bene, perché se vi dovete indebitare per i prossimi 2 anni per comprarvi l'iPhone, compratevi un telefonino normale che costa un terzo e state bene lo stesso. Questo è il mio consiglio personale che uso per me e spero che lo usiate anche voi. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, è nato, tenetevi forte, l'uovo sodo vegano, centesimo brevetto dell'Università di Udine. Cioè è già sodo. Creare un prodotto alimentare adesso ci vuole un brevetto dell'Università di Udine, messo appunto da 4 studentesse della magistrale in scienze e tecnologie alimentari, sarà presto commercializzato. Ecco noi una delle protagoniste di questa storia, Francesca Zuccolo. Buongiorno Francesca. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, praticamente una delle 4 donne che ha fatto l'uovo, si può dire, così? Sì, si può dire. E facciamoci una risata a denti stretti. Francesca, praticamente dovevate fare la tesina o qualcosa del genere e avete pensato, perché non inventiamo un prodotto vero e proprio? No, praticamente ci hanno chiesto inventate, quindi ideate, progettate, infine realizzate fisicamente un prodotto innovativo che non esista sul mercato. E penso che noi abbiamo svolto a pieno il nostro compito, no? Ecco, tu non sei però vegana o sì, vegetariana? No. No, no, io non sono né vegana né vegetariana, sono onnivora. Brava, mangi tutto, cioè brava, insomma, fai quello che ti pare, come tutti, adesso siamo liberi in un mondo di liberi, non tutti ma molti. Come si compone questo uovo vegano? Cosa c'è dentro? Allora, ci teniamo a dire che sono tutti ingredienti molto semplici e tutti sani. Tutti ovviamente di origine vegetale, perché ovviamente è quello che richiedono i canoni del veganesimo. È principalmente composto da farina di legumi per dare appunto l'apporto proteico che potrebbe dare un uovo tradizionale. C'è ovviamente una frazione grassa e di zuccheri, insomma. Guardando, ma mi scusi per la domanda stupida, ma al guscio? No. Ci abbiamo provato, però poi è andato un po' a monte. Niente guscio, niente guscio. No, perché io mi immaginavo proprio l'uovo che poi uno se lo fa strapazzato, uno se lo fa sodo, invece nasce sodo, no, da un certo punto sodo, di vista. Nasce sodo, sì. E guardando pronto, la foto ricorda molto l'uovo sodo, no? Però io mi domando sempre, ma perché no, uno deve, i vegani dovrebbero ricreare, non so, l'hot dog vegano, l'uovo cioè vegano. Si facciano i cibi loro, vegano, volevi dire? Francesca, è una domanda scomoda per te, però. No, boh, no, perché diciamo che questo è, fra virgolette, il nostro lavoro, quello di capire quali sono le tendenze del mercato, capire quali prodotti ci sono già e quelli che mancano e quelli che vengono richiesti dal mercato. E insomma abbiamo visto che un po' tra i vari burger di soia, le cotolette, le polpette, il trend è quello, il trend cose, è quello. Però secondo me c'è anche un altro mercato che non è solamente quello dei vegani, di persone che amano molto le uova e però con lo spauracchio che l'uovo, il colesterolo, adesso non so esattamente, non bisogna mangiarne più di due, più di tre, più di non lo so, e quindi che forse decide di mangiare ogni tanto delle uova vegane, può essere? Io spero non per lo spauracchio delle varie, dei vari, fra virgolette, scandali alimentari che si sentono anche no, ultimamente. No, ma insomma, non parlavo degli uovi al fipronilla, quelle uova lì. Ecco. Ho detto anche degli uovi, credo. Ecco. No, poi anche per la questione colesterolo, sì, è una questione abbastanza importante, quindi noi facendo questo, fra virgolette, uovo, abbiamo risolto in parte il problema del colesterolo alto, dell'ipercolesterolemia che certo. Ma allora, sa di uovo? Ecco, bravo, perché a guardarlo sì, però poi se lo assaggi? Sì, sa abbastanza di uovo. Sì. Abbastanza di siamo uovo. Siamo riuscite. Ovviamente non è una riproduzione fedele al 100%, anche perché si sa che quello che è animale è animale ed è difficilmente riproducibile fedelmente, però qualcosina. Però ha il suo perché. E allora a questo punto, scusa, avete immaginato una ricetta per cucinare l'uovo sodo vegano però? Allora, questo essendo pronto al consumo è lì, bello e così, pronto. Già è sodo e si mangia così. Ma è già commercializzato? È già commercializzato? No, assolutamente, infatti stiamo aspettando che qualche azienda ci contatti per metterlo in produzione, insomma. Sì. E uno lo mangia così, per esempio con la pasta d'acciughe. Ah no, se uno è vegano non può mangiare la pasta d'acciughe. Con cosa lo mangia? Con l'olio? Con una salsa, una maionese vegana, che ce ne sono certo, a bizzeffe ormai. O in insalata. Certo, con l'olio, il sale, condito, sì. Ottimo. Molto bene, certo. Abbiamo anche le uova senza colesterolo. Prossima invenzione, ce l'avete già in testa? No, per ora ci siamo fermate qua, anche perché è nato un po' tutto, fra virgolette, così, per caso. Chissà se prenderà piede questa invenzione, il centesimo, tra l'altro, brevetto dell'università. Il brevetto vuol dire, a Udine, vuol dire che non ve lo può copiare nessuno. Esattamente, è una forma di protezione del nostro, fra virgolette, trovato. Brave, sappiate in giro nel mondo che l'uovo sodo vegano l'hanno inventato a Udine. Grazie Francesca Zuccolo, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. E allora, cari ascoltatori, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Noi ci risentiremo il prossimo weekend, naturalmente alle 7.30, sabato alle 8.10. Questo è il nuovo orario. La domenica. 5-8.10 dopo il GR, insomma, delle 8 la domenica. Quindi la domenica si inizia prima. State sempre con noi. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Laura Vanossi, Carmelo Lauricella. Oggi in regia. Ci sentiamo, come detto, sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. E anche a chi ci ascolta in podcast. Certo, sempre.